O di uno o di nessuno. Prima parte. Dalla terza raccolta di novelle per un anno. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Silvia De Simone. Novelle per un anno, di Luigi Pirandello. O di uno o di nessuno, prima parte. Capitolo 1. Chi era stato? Uno dei due, certamente, o forse un terzo, ignoto. Ma no, in coscienza, né l'uno né l'altro dei due amici avevano alcun motivo di sospettarlo. Melina era buona, modesta, e poi così disgustata dall'antica sua vita. A Roma non conosceva nessuno, viveva appartata e se non proprio contenta si dimostrava gratissima della condizione che le avevano fatta, richiamandola 2 anni addietro da Padova, dove studenti allora d'università l'avevano conosciuta. Vinto insieme un concorso al Ministero della Guerra, collegata alla loro vita in tutto, Tito Morena e Carlino Sanni avevano stimato prudente e giudizioso 2 anni addietro, cioè ai primi aumenti dello stipendio, provvedere anche insieme al bisogno indispensabile d'una donna, che li curasse e salvasse dal rischio a cui erano esposti, seguitando ciascuno per suo conto a cercare una qualche sicura stabilità d'amore, di contrarre un tristo legame, non men gravoso d'un matrimonio, per adesso e forse per sempre conteso loro dalle ristrettezze finanziarie e difficoltà della vita. E avevano pensato a Melina, tenera e dolce amica degli studenti padovani, che erano soliti andare a trovare in Via del Santo, nelle sere d'inverno e di primavera lassù. Melina sarebbe stata la più adatta per loro. Avrebbe recato con sé da Padova tutti i lieti ricordi della prima spensierata gioventù. Le avevano scritto, aveva accettato. E allora, giudiziosamente come sempre, avevano disposto che ella non coabitasse con loro. Le avevano preso in affitto 2 stanzette modeste in un quartiere lontano, fuori di porta, e lì andavano a trovarla, ora l'uno, ora l'altro, così come s'erano accordati, senza invidia e senza gelosia. Tutto era andato bene per 2 anni, con soddisfazione d'entrambi. D'indole mitissima, di poche parole e ritegnosa, Melina si era mostrata amica a tutte e due, senza ombra di preferenza né per l'uno né per l'altro. Erano 2 bravi giovani, ben educati e cordiali. Certo, uno, Tito Morena, era più bello. Ma Carlino Sanni, che non era poi brutto neanche lui, quantunque avesse la testa ad una forma curiosa, molto più vivace e grazioso dell'altro. L'annunzio inatteso di quel caso impreveduto gettò i 2 amici in preda a una profonda costernazione. Un figlio! Uno di loro 2 era stato, certamente. Chi dei 2, né l'uno né l'altro, né la stessa Melina, potevano sapere? Era una sciagura per tutti e 3. E nessuno dei 2 amici s'arrischiò a domandare dapprima alla donna «Tu chi credi?» per timore che l'altro potesse sospettare che egli intendesse con ciò di sottrarsi alla responsabilità rovesciandola soltanto addosso a uno. Né Melina tentò minimamente di indurre l'uno o l'altro a credere che il padre fosse lui. Ella era nelle mani di tutti e 2 e a tutti e 2, non all'uno né all'altro, voleva affidarsi. Uno era stato, ma chi dei 2 ella non solo non poteva dire, ma non voleva nemmeno supporre. Legati ancora alla propria famiglia lontana, con tutti i ricordi dell'intimità domestica, Carlino Sanni e Tito Morena sapevano che quest'intimità non poteva più essere per loro, staccati come già ne erano per sempre. Ma in fondo erano rimasti come 2 uccellini, che sotto le penne già cresciute e per necessità abituate al volo, avessero serbato e volessero custodir nascosto il tepore del nido che li aveva accolti in plumi. Ne provavano intanto quasi vergogna, come per una debolezza che a confessarla avrebbe potuto renderli ridicoli. E forse l'avvertimento di questa vergogna cagionava loro un segreto rimorso. e il rimorso a loro insaputa si manifestava in una certa acredine di parole, di sorrisi, di modi, che essi credevano invece effetto di quella vita arida, priva di cure intime, in cui più nessun affetto vero avrebbe potuto metter radici, che erano costretti a vivere e a cui dovevano ormai abituarsi, come tanti altri. E negli occhi chiari, quasi infantili, di Tito Morena, lo sguardo avrebbe voluto avere una durezza di gelo. Spesso lo aveva. Ma pure talvolta quello sguardo gli si velava per la commozione improvvisa di qualche lontano ricordo. E allora quella velatura di gelo era come l'appannarsi dei vetri d'una finestra per il caldo di dentro e il freddo di fuori. Carlino Sanni, dal canto suo, si raschiava con le unghie le gote rase e rompeva con lo stridore dei pili rinascenti certi angosciosi silenzi interiori e si richiamava all'ispida realtà del suo vigor maschile, che via! Gli imponeva ormai d'essere uomo, vale a dire un po' crudele. S'accorsero, all'annunzio inatteso della donna, che senza saperlo e senza volerlo, ciascuno, dimenticandosi dell'altro e anche della voluta durezza e della voluta crudeltà, aveva messo in quella relazione con Melina tutto il proprio cuore, per quel segreto cocente bisogno di intimità familiare. E avvertirono un sordo astio, un'agra amarezza di rancore, non propriamente contro la donna, ma contro il corpo di lei che nell'incoscienza dell'abbandono aveva evidentemente dovuto prendersi più dell'uno che dell'altro. Non gelosia, perché il tradimento non era voluto. Il tradimento era della natura, ed era un tradimento quasi beffardo. Ciecamente, di soppiatto, la natura s'era divertita a guastar quel nido che essi volevano credere costruito più dalla loro saggezza che dal loro cuore. Che fare, intanto? La maternità in quella ragazza assumeva per la loro coscienza un senso e un valore che li turbava tanto più profondamente in quanto sapevano che ella non si sarebbe affatto ribellata se essi non avessero voluto rispettargliela. Ma li avrebbe in cuor suo giudicati ingiusti e cattivi. Era in lei tanta dolcezza dolente e rassegnata. Con gli occhi, il cui sguardo talvolta esprimeva il sorriso mesto delle labbra non mosse, diceva chiaramente che lei, nonostante quell'ambiguo suo stato, da 2 anni, mercè loro, si sentiva rinata. E appunto da questo suo rinascere alla modestia degli antichi sentimenti dovuto a loro, al modo con cui essi, quasi a loro insaputa, l'avevano trattata, proveniva la sua maternità, il rifiorire di essa che nella trista arsura del vizio non amato s'era per tanti anni sterilita. Ora non sarebbero venuti meno d'improvviso, crudelmente, alla loro opera stessa, ricacciando Melina nell'avvilimento di prima, impedendole di raccogliere il frutto di tutto il bene che le avevano fatto? Questo i 2 amici avvertivano in confuso nel turbamento della coscienza. E forse, se ciascuno dei 2 avesse potuto essere sicuro che il figlio era suo, non avrebbe esitato ad assumersene il peso e la responsabilità, persuadendo l'altro a ritrarsi. Ma chi poteva dare all'uno o all'altro questa certezza? Nel dubbio inovviabile, i 2 amici decisero che, senza dirne nulla per adesso a Melina, quando sarebbe stata l'ora, l'avrebbero mandata a liberarsi in qualche ospizio di maternità, da cui quindi sarebbe ritornata a loro, sola. Capitolo 2. Melina non chiese nulla. Intuì la loro decisione, ma intuì pure con quale animo entrambi l'avevano presa. Lasciò passare qualche tempo. Quando le parve il momento opportuno, a Carlino Sanni, che quella sera si trovava con lei, mostrò con gli occhi bassi e un timido sorriso sulle labbra una pezza di tela comperata il giorno avanti coi suoi risparmi. «Ti piace?» Il giovine finse dapprima di non comprendere. Esaminò, appressandosi al lume, la tela, con gli occhi, col tatto. «Buona», disse. «E quanto l'hai pagata?» Melina alzò gli occhi, ove la malizietta sorrideva implorante. «Oh, poco», rispose. «Indovina». «Quanto?» «No, dico, perché l'ho comperata». Carlino si strinse nelle spalle, fingendo ancora di non comprendere. «Oh, bella, perché ti bisognava? Ma l'hai comperata da te e non dovevi. Potevi dirci che ti bisognava». Melina allora alzò la tela e vi nascose la faccia. Stette un pezzo così. Poi, con gli occhi pieni di lacrime, scotendo amaramente il capo, disse: «Dunque no, proprio no, è vero, non debbo preparar nulla!» E vedendo a questa domanda supplichevole restare il giovine tra confuso, seccato e commosso, subito gli prese una mano, lo attirò a sé e s'affrettò a soggiungere con foga: «Senti, Carlino, senti, per carità, io non voglio nulla, non chiedo nulla di più. Come ho comperato questa tela, così, con altri piccoli risparmi, potrei provvedere io a tutto. No, senti, stammi prima a sentire, senza alzare le spalle, senza farmi codesti occhiacci. Guarda, ti giuro che non avrete mai nessun fastidio, nessun peso, mai. Lasciami dire, ma avanza tanto tempo qua. Ho imparato a lavorare per voi. Seguiterò sempre a lavorare. Oh, potete star sicuri che non vi mancheranno mai le mie cure. Ma ecco, vedi, badando a voi, come faccio, alla vostra biancheria, ai vostri abiti, ma avanza ancora tanto tempo, tanto che lo sai, ho imparato a leggere, a scrivere, da me. Ebbene, ora lascerò questo e cercherò altro lavoro da fare qui in casa. E sarò felice, credimi, credimi, non vi chiederò mai nulla, Carlino, mai nulla. Concedetemi questa grazia, per carità. Sì, sì!» Carlino schivava di guardarla, voltando la testa di qua e di là, e alzava una spalla e apriva e chiudeva le mani e sbuffava. Prima di tutto, via, ci voleva poco a intendere che lui, così, su due piedi e senza consultare l'altro, non poteva darle nessuna risposta. E poi, sì, era presto detto, nessun peso, nessun fastidio. Il peso e il fastidio sarebbero stati il meno. La responsabilità d'una vita, per Dio, che a uno dei due apparteneva di certo, ma a quale dei due non si poteva sapere. Ecco, era questo. «Ma a me, Carlino», rispose pronta con ardore Melina, «a me appartiene di certo, e la responsabilità, perché dovete assumervela voi? Me l'assumo io, ti dico, intera». «E come?» gridò il giovane. «Come? Ma così, me l'assumo! Stammi a sentire, per carità! Guarda, tra 10 anni, Carlino, chissà quante cose potranno accadere a voi due. Tra 10 anni, e quando anche voleste seguitare a vivere così, tutti e due insieme, tra 10 anni, che sarò più io? Non sarò più certo buona per voi. Vi sarete certo stancati di me. Ebbene, fino a 10 anni sarà ancora ragazzo il mio figliolo, e non vi darà né spesa né fastidio, perché provvederò io a tutto col mio lavoro. Ma capisci che ora che ho imparato a lavorare non posso più buttarlo via? Lo terrò con me, mi darà qui conforto e compagnia. E poi, quando voi non mi vorrete più, avrò lui almeno, avrò lui, capisci? Lo so, non devi né puoi dirmi di sì per ora, da solo. Perché l'ho detto prima a te, non a Tito? Non lo so, il cuore mi ha suggerito così. È anche lui tanto buono, Tito. Parlagliene tu, come credi, quando credi, io sono qua, in mano vostra. Non dirò più nulla. Farò come voi vorrete». Carlino Sanni parlò a Tito Morena il giorno dopo. Si mostrò seccatissimo di Melina e veramente credeva di avercela con lei. Ma appena vide Tito accordarsi con lui nel disapprovare la proposta di Melina, si accorse che aveva la stizza in corpo non per lei, ma perché prevedeva l'opposizione di Tito. Prevedeva l'opposizione, eppure forse in fondo sperava che Tito invece si assumesse contro a lui la parte di contentare Melina, cioè quella stessa parte che molto volentieri si sarebbe assunta lui, ove non avesse temuto di far peggio. Si stizzì del subitaneo accordo e Tito rimase stordito di quella stizza in attesa. Lo guardò un poco, gli domandò: «Ma scusa, non dici quello che dico io?» E Carlino: «Ma sì, ma sì, ma sì!» A ragionare, infatti, non potevano non essere d'accordo. E anche il sentimento avevano entrambi comune. Se non che questo sentimento comune, anziché accordarli, non solo li divideva, ma li rendeva l'uno all'altro nemici. Tito, che era il più calmo in quel momento, comprese bene che a lasciar prorompere il sentimento sarebbe di certo e subito avvenuta tra loro una rottura insanabile. Avrebbe voluto perciò lasciargli il discorso, ove la sua ragione e quella dell'amico, freddamente e così fuor fuori, potevano restar d'accordo. Ma Carlino, turbato dalla stizza, non seppe trattenersi. Tanto disse che alla fine fece perdere la calma anche a Tito. E tutt'a un tratto i due, finora l'uno accanto all'altro, amici cordialissimi, si scoprirono negli occhi, l'uno di fronte all'altro, cordialissimi nemici. «Vorrei sapere, intanto, perché prima l'ha detto a te e non a me?» «Perché iersera c'ero io e non l'ha detto a me?» «Poteva bene aspettar domani e dirlo a me?» «Se l'ha detto iersera che c'eri tu, è segno che t'ha creduto più tenero di cuore e più disposto a venir meno a ciò che tutti e due insieme, di pieno accordo, avevamo stabilito.» «Ma niente affatto, perché io le ho detto di no, precisamente come dici tu.» Ma capirai che ella ha insistito, ha pianto, ha scongiurato, ha fatto tante promesse, tanti giuramenti. E di fronte a queste lacrime, a queste promesse, io non so, non potevo sapere come saresti rimasto tu e se anche tu, per tuo conto, avresti voluto risponderle di no. Ma non s'era stabilito no? Dunque no! Carlino Sanni si scrollò rabbiosamente. Va bene, ora andrai a dirglielo tu. «Bello, mi piace!» squittì Tito. «Così la parte del cuor duro, del tiranno, la faccio io, e tu rimani per lei quello che si era piegato, commosso, intenerito!» «E se fosse così?» saltò su Carlino, guardandolo da presso negli occhi. «Sei sicuro tu che non ti saresti piegato, commosso, intenerito al posto mio? E avresti avuto il coraggio, così commosso e intenerito, di dirle di no, anche per conto di un altro che forse al tuo posto si sarebbe come te commosso e intenerito? Rispondi a questo, rispondi!» Così sfidato, con gli occhi negli occhi, Tito non volle darsi per vinto e mentì imperterrito. «Io, commosso, chi te lo dice?» «E dunque è vero», esclamò allora Carlino trionfante, «che il cuor duro sei tu e puoi bene andarglielo a dire!» «Oh, sai che ti dico io invece?» fremé Tito al colmo del dispetto. «Che no abbastanza io dico desta storia e voglio farla finita!» Carlino gli s'appressò di nuovo, minaccioso. Cioè? Piano piano, caro mio, aspetta, farla finita adesso in che modo?» «Oh!» fece Tito con un sorriso stirato, guardandolo dall'alto in basso. «Non ti credere che voglia venir meno a quanto debbo. Seguiterò a dare la parte mia, finché lei sarà in quello stato. Poi faccia quello che vuole. Se vuol tenersi il figlio, se lo tenga. Se vuol buttarlo via, lo butti. Per me non vorrò più saperne.» «E io?» domandò Carlino. «Ma farei anche tu ciò che ti pare.» «Eh, non è mica vero.» «Perché no? Lo capisci bene perché no. Se non ci vai più tu, non potrò più andarci neanche io.» «E perché?» «Perché da solo sai bene che non posso accollarmi tutto il peso del mantenimento. Non posso e non debbo del resto, perché non so di certo se il figlio sia mio e tu non puoi lasciarmi sulle spalle il peso di un figlio che può essere tuo. Ma se ti dico che seguiterò a dar la parte mia...» «Grazie tante, non posso accettare. Già, in mezzo resterei sempre io, di più.» «Perché vuoi restarci?» «Ma scusa, e perché non vuoi tu restare ai patti? Che cosa chiede lei alla fine che tu non possa accordarle? Se non ci fa nessun carico del figliuolo, se lo darà per sé. Ma senti, ma ascolta.» E Carlino prese a inseguire per la stanza Tito, che si allontanava scrollandosi, per trattenerlo a ragionare. E non intendeva che, assumendo ora quel tono persuasivo, quella pacata difesa della donna faceva peggio. Tito stesso alla fine glielo gridò. «Sarà un sospetto ingiusto, ma che vuoi farci? Ma è entrato! Non posso più scacciarlo! Non posso seguitare così insieme una relazione che era solo possibile a patto che nessun contrasto sorgesse tra noi!» «Ma andiamo tutti e due insieme allora!» propose Carlino. «Tutti e due insieme a dirle di no! Io già gliel'ho detto per conto mio! Ora andiamo a ripeterglielo insieme. E se vuoi parlerò io più forte. Le dimostrerò io che non è possibile accordarle quello che chiede.» «E poi?» fece Tito. «Credi che ella sarebbe più qual è stata finora? Se desidera tanto di tenersi il figlio, la faremmo infelice, credi, Carlino, inutilmente. Perché... lo sento bene, per me è finita. Sarà un dispetto sciocco. Non mi passa. Sento che non mi passa. E allora? Non posso, non voglio più tornarci, ecco.» «E dovremmo abbandonarla così?» domandò Carlino, accigliato. «Ma niente affatto abbandonarla!» esclamò Tito. T'ho detto e ripetuto che seguiterò a dar la parte mia, finché ella si troverà in questo stato e non troverà modo di provvedere a sé altrimenti. Tu poi, per conto tuo, fa quello che credi. Te lo dico proprio senza astio, bada, e con la massima franchezza. Carlino rimase muto, ingrugnato, a raschiarsi con le unghie le gote rase. E per quel giorno il discorso finì lì. Fine prima parte della novella O di uno o di nessuno. Registrazione di Silvia De Simone. Roma,